La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci, come sempre all'appuntamento del sabato sera, quasi sera, con La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, con il nostro settimanale su tutto il cinema che c'è, con Venezia che ha un leone pronto a ruggire di qui a poco, insomma, prima di cena il leone ruggisce, il leone d'oro della 73esima mostra del cinema. Qualche film, anzi un film da Venezia rimbalza nelle sale cinematografiche italiane. Si tratta di Tommaso di Kim Rossi Stuart, ne parleremo fra poco, sentiremo il regista, ma sarà una puntata piena di interviste e di cose speciali. Vi ricordo sempre su tutto il nostro gioco che vi aiuta, se siete bravi, indovinate il nostro film misterioso, a vincere splendidi DVD e Blu-ray. Però colleghiamoci subito con Venezia, dove sta, come dire, preparando i bagagli Boris Sollazzo dopo questa permanenza, festival monster come quello di Cannes, insomma 11 giorni di cinema che mettono a dura prova anche il più incallito cinefilo. Boris Sollazzo è un po' provato, ma cerchiamo di tenerlo su con la nostra puntata. Ciao Boris. Soprattutto se dormi per terra, perché poi diciamola questa cosa, apriamo questa finestra sul fatto che i critici, in particolare quelli precari e più giovani, anche se io non sono più giovane, occupano case di ridenzi che diventano ricchi e mandano i figli a scuola, grazie a noi, di solito in 8-10, in un poco più di 70 metri quadri, quindi insomma... Sì, sì, no, ma è famoso. Tu vai a Venezia, beato te che ti diverti, no? Quella bravissimo, cosa lì, effettivamente. Esatto. Qualcuno magari si diverte anche, i colleghi più invidiati che possono occupare qualche stanza d'albergo importante, tra l'altro devo dire sono sempre meno perché i prezzi a Venezia sono sempre più alti, però insomma, vita da festival. Certo, la miniera è un'altra cosa, però tutto sommato anche lì si sgobba abbastanza. E allora, al termine di tutto questo sgobbare, Boris... a poche ore, diciamo verso le 20 grosso modo, viene dato il palmarès, che idea ti sei fatto? Qual è il tuo leone? Qual è il più probabile leone d'oro di questa 73esima mostra? Ma allora, intanto che sicuramente non vincerà un italiano, e queste sono le classiche frasi che di cui uno si potrebbe pentire fra un paio d'ore, ma sarei ben felice di pentirmene, insomma. Però mi sembra che per la costituzione della giuria e per insomma, la qualità dei prodotti scelti dal comitato di selezione, che secondo me insomma non ha sbagliato moltissimo, ma di sicuro ha sbagliato, come è capitato a tanti altri direttori e comitati di selezione, la scelta degli italiani, si può dire con una certa sicurezza che questo non accadrà. Io non mi stupirei se ci trovassimo di fronte o un Villeneuve, che sono anni che gode di ottima stampa e ottima critica e che potrebbe insomma affascinare, appassionare varie tipologie di critiche, o un Konchalovsky che ha fatto un film molto old fashion, molto particolare, anche discutibile, ma che secondo me ha la complessità e la forza per poter essere il classico leone d'oro che crea grandi passioni e grandi odi. Il certo è che quell'aura che dicevamo rende difficilissimo il pronostico, perché ce ne sono tanti che potrebbero vincere. È un po' come un campionato italiano senza la Juventus. Assolutamente, e peraltro si parla anche nelle ultime ore di Love Diaz con i suoi 4 ore di film in bianco e nero, che potrebbe salire, ma noi tuffiamoci in sala, Boris, perché come dicevamo, da Venezia un primo film arriva nelle sale ed è proprio uno di quei film italiani di cui abbiamo parlato. Stiamo parlando di Tommaso, nuova prova alla regia di Kim Rossi Stuart. Devo trovare qualcosa che non va nella mia salute, ecco. Qualcosa che non va, lo trovo sicuramente, qualcosa non va. Tommaso! Mi tiro fuori da sto... Tommaso, basta! No, basta, qualcosa. Tommaso! No, qualcosa, tu non hai capito. Tommaso, il film inizia tra 4 mesi. Guarda che se continui così ti ammali veramente. Ma io non lo posso fare. Calmati. Non lo posso fare. Ti prego, film, prego. Se faccio questo film è la fine, calmati, mi rovino, Tommaso, non hai capito. Vieni qua. Non hai capito. Ma è solo un film. Sitti seduto, stai calmo. Rilassati. Respira. Devi essere più sicuro, vedrai che andrà bene. Te lo prometto. Dici? Mm-hmm. Lo sai che diceva il saggio? Cosa? Quanto dolore ci sono costate tutte quelle paure che non si sono mai realizzate. e toni molto intimi. Avete sentito in questa clip la storia di un giovane attore, Tommaso, giovane, non giovanissimo, però bello, romantico, alle prese però con parecchi problemi con il mondo femminile. Boris, c'era un po' da verificare lo stato dell'arte di un film diretto da Kirossi Stewart 10 anni dopo il suo primo film da regista, che era anche Libero va bene. Come vanno le cose? Abbiamo trovato un autore o abbiamo perso un attore? È difficile capirlo, devo essere sincero, perché verrebbe da essere tranchant verso Tommaso, perché sicuramente non riuscito, e dopo l'esordio bellocchiano di Anche Libero va bene, si fa grandissima fatica a riconoscere quel Kirossi Stewart in questa opera seconda che arriva 10 anni dopo, e probabilmente il fatto che arrivi 10 anni dopo comporta una ruggine e anche un'aspettativa che droga il giudizio. Va detto, bisogna essere onesti, il film non è affatto riuscito. Il film però in qualche modo ci dice anche che l'autore c'è, l'autore esiste, prende delle scelte, ha una visione forte, vuole mettersi in gioco. Quel protagonista è Kirossi Stewart, chiaramente magari ce l'auguriamo anche per lui, non in tutti quegli eccessi, insomma, quell'ossessione per le donne quasi grottesca. Di sicuro non è un attore cane come l'attore che interpreta, non è un regista pieno di grilli per la testa come il regista che interpreta, però insomma si diverte a giocare con la propria vita mettendola in scena, e le singole intuizioni sono anche interessanti, appunto l'ossessione per le donne, il suo perfezionismo che applica solo agli altri, è molto divertente il modo in cui gioca con i difetti fisici di Jasmine Trink e Cristiana Capotondi. Sul piano dell'ironia ha singole intuizioni, però non riesce a costruire in film, a rendere poi organiche a quel film. E credo anche che il lungo lavoro di post-produzione, il lungo montaggio, diciamo il lungo calvario che ha passato questo film, che è in giro da un po' di tempo, non abbia contribuito a renderlo migliore. L'impressione è che abbia cercato poi Kirossi Stewart di allontanarlo un po' da sé, probabilmente, però mantenendo poi una vicinanza straordinaria rispetto alla sua autobiografia. È un film davvero molto indeciso nelle strade da prendere, in cui lui sembra aver perso un po' quello stile invece molto omogeneo, molto, molto forte, molto particolare. È anche vero che lui ha dichiarato di essere intenzionato ad affrontare la regia come una sfida costantemente nuova, cioè sempre alla ricerca di nuovi generi da esplorare. È anche vero che questo rende molto più difficile la sua partita, perché inevitabilmente andare sempre su lidi nuovi può essere un problema. Diciamo che questa opera seconda, un po' morettiana, un po' Woody Alleniana, non gli è riuscita molto, quindi il film è da bocciare, l'autore secondo me è solo da rimandare. E allora questo è il giudizio di Boris Sollazzo su Tommaso di Kirossi Stewart nei cinema italiani. Adesso viabilità, fra poco Kirossi Stewart al microfono di Boris Sollazzo nella nostra intervista per La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea. Eccoci qua ancora insieme alla Rosa Purpurea, stiamo parlando dei film che da Venezia sono arrivati nelle nostre sale. Abbiamo parlato di Tommaso, nuova prova alla regia di Kirossi Stewart, e allora eccolo, Kirossi Stewart al microfono di Boris Sollazzo. Mettersi in scena già è complicato, costringersi a interpretare un attore non proprio bravissimo deve essere ancora più difficile. Allora, l'arco narrativo che si riferisce alla professione di Tommaso è marginale. Mi è parso però positivo creare questa, non l'ho capito bene neanche io fino a che punto, illusione o realtà, cioè di una sorta di messa a nudo dell'autore, cioè mia, no? Questa è proprio una considerazione, passatemi il termine un po' altisonante, un po' filosofica, importante, che deriva dall'idea che oggigiorno nella società così funestata da cose negative, così, che sono tutte determinate poi dai soldi, dall'ideologia del profitto, eccetera, eccetera. Comunque, insomma, quello che penso è che una cosa positiva sarebbe mettersi a nudo, questo da parte di tutti, e in primis l'ho voluto fare io, no in primis, insomma, comunque nel mio piccolo, nel mio ambiente, nel mio specifico professione, ho voluto creare questa idea qua. Senti, provando a fare l'autocritica, l'autorecensione, l'impressione è che sia un film dettato dall'istinto, però anche da un grande ragionamento, cioè le fasi di scrittura, la scrittura, la regia e anche il montaggio sono molto presenti, forti. Ma sì, è stato un lavoro molto lungo, molto, non a caso sono passati tutti questi anni. Fare un film sullo stomaco è più immediato, è più istintivo, è più emotivo. Qui questo film coinvolge, come dicevo prima, la mente, quindi c'è un'analisi della mente emotivamente, come dire, è meno forte proprio perché è un film che coinvolge molto il ragionamento. Tommaso può diventare il tuo apicella oppure insomma lo lascerai andare? No, perdonami, ma io sono troppo, in questo senso sono troppo ambizioso, cioè io ho fatto un film che penso abbia una qualità, è assolutamente personale e in questo senso originale, quindi non, perdonami, ma i confronti non... No, ma non era il confronto, era il senso che può diventare una sorta di Virgilio del tuo cinema, non era un paragone con Moretti, ma il senso... No, non credo, ti racconterò ancora di più se vuoi delle mie megalomanie, a me... piacerebbe, sono sempre stato affascinato da un'idea, fare dei film nel tempo, programmarmi per fare dei film che appartengono sempre a un genere diverso. Anche Libero va bene apparteneva al genere di formazione che ha illustrissimi autori che hanno fatto da Truffaut a De Sica, che hanno fatto dei capolavori. Ecco, in questo senso vi posso dire che mi posso anche essere ispirato a qualcuno. Questo invece è un film, come dicevo prima, del genere autoreferenziale, mi interessava farne uno nella mia vita, il prossimo sarà un'altra cosa. Il fatto che ti si vede meno come attore, perché sei più interessato alla regia, al racconto o perché non ti offrono ruoli abbastanza belli? No, beh, io ho sempre lavorato poco, perché ho un problema, sono ammalato, sono affetto da una strana cosa che è quella di voler... dall'aspirazione di fare film tutti molto sentiti, quindi questo è ovvio che fa una selezione molto forte. Non te li hanno proposti questi film molto sentiti, vero? Beh, uno ogni due anni va bene. E allora, questa è l'intervista di Boris Sollazzo a Kim Rossi Stewart. Facciamo così, prendiamoci subito i primi 10 secondi per il nostro game, per il nostro film misterioso. Vi ricordo sempre, alcune tracce seminate durante La Rosa Purpurea, dovete indovinare di che film si tratta e scrivercelo al nostro indirizzo di posta elettronica. Sentiamo. Tranquillo ragazzo, non ti spaventare, ok? Dove mi trovo? Questa è una caverna, la mia caverna. E allora, di chi è questa caverna? Quale film si nasconde dietro questa traccia misteriosa? Se l'avete già indovinato, La Rosa Purpurea, @radio24.it, con il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray pronte a raggiungervi, film che noi sveleremo prima della fine di questa puntata, ma i vincitori si sapranno solamente fra 7 giorni. Però, se non l'avete indovinato, non preoccupatevi, fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Andiamo avanti con le novità in sala, parlando di un film che a mio modo di vedere è sicuramente il film della settimana, il film più convincente, che reinterpreta una modalità, diciamo così, dell'horror, del thriller horror, che è quella della casa maledetta. In questo caso la casa non è assolutamente maledetta, solo che è abitata da un personaggio che forse i nostri giovani protagonisti hanno sottovalutato. Nel raggio di almeno 4 isolati non ci sono abitanti. Niente persone significa niente pattuglie di sbirri. Sarà una passeggiata. È una sociale, non esce di casa da almeno 5 giorni. Entriamo con lui in casa. Basta una bomba al cloroformio. Che cazzo? Merda! Cristo! Porca brutta stronza! Giù dalla mia fottuta auto! Che schifo! Cazzo, è lui. Aspetta, ma è cieco? Ha perso la vista in Iraq o roba simile. È un po' immorale derubare un cieco, non credi? Soltanto perché è cieco non vuol dire che è un santo. Lo facciamo stanotte. In effetti, perfetta la clip preparata dalla nostra Miriam Lucchetti in redazione, perché è proprio la carta d'identità di presentazione del film. Cosa succede? Succede che un manipolo di ragazzi che sono dediti a rapine nelle case a Detroit, in una Detroit tra l'altro come sempre dilaniata dalla crisi economica, ormai è diventato lo sfondo dei film peggiori proprio come ambientazione Detroit, ebbene tenta questo colpo ai danni di un anziano veterano dell'Iraq, della guerra del Golfo, rimasto cieco in seguito appunto a una ferita di guerra. Ha ricevuto un risarcimento a molti zeri e secondo loro lo tiene in casa. E quindi cosa più di più facile andare a derubare un cieco in casa sua? Beh, scopriranno che le cose effettivamente non sono così, che come dice la clip non è detto che perché è cieco sia un santo, e lo scopriranno ai loro danni. Boris, intanto andiamo a raccontare un po' del regista Fede Alvarez, che aveva girato il remake della Casa e che stavolta si produce di nuovo in un film con una casa come protagonista, però come dicevo, levando di mezzo tutto il soprannaturale, qui è tutto realistico, cioè questo è un horror realistico, cioè tutto quello che vedete potrebbe davvero succedere. Fede Alvarez ha una storia particolare, perché Fede Alvarez con una produzione indipendente e molto avveniristica, soprattutto per i mezzi che usava e per le invenzioni che trovava, era diventato sostanzialmente una piccola star senza aver fatto nessun prodotto di grande successo, ma semplicemente avendo fatto parlare di sé. Arriva alla Casa, nel remake della Casa, e quello è un fallimento, sbaglia sostanzialmente tutto, soprattutto perché si snatura, e la scelta di questo Man in the Dark è affascinante anche meta cinematograficamente, perché Fede Alvarez decide di mantenere lo stesso campo da gioco, cioè una casa, quasi a voler vendicarsi, quasi a voler esorcizzare il suo insuccesso di bambino prodigio che cade alla prima tappa, e però cambia tutto, torna all'origine, torna a se stesso, cioè torna a identificarsi in un personaggio che è come lui, utilizza quello che ha per sembrare eccezionale, per diventare eccezionale, e lo fa con un genere che normalmente aveva trovato sfogo soprattutto nella comicità, penso a Mamma ho perso l'aereo, cioè nel genere di un indifeso che viene attaccato da dei malfattori che sembrano chiaramente vincenti fin dall'inizio e che così non saranno, in questo caso un veterano di guerra appunto cieco. La forza di Fede Alvarez è che, essendo tornato il piccolo genio che era in precedenza e soprattutto estremamente indipendente, non ha paura di prenderci a pugni in faccia, di dimostrare che anche noi siamo ciechi, che anche noi guardiamo con gli occhi sbagliati. E quindi inizia questo thriller pazzesco in cui noi quasi subito non troviamo niente di strano nel fatto che i tre normodotati siano sfavoriti rispetto a uno che di fatto si dimostrerà superdotato, perché ha dei sensi molto più acuiti rispetto a loro e soprattutto sa come mettersi dalla parte giusta, e però gioca anche con tutti gli altri sensi, cioè i sensi di colpa. Noi troviamo dei banditi che hanno dei sensi di colpa, che poco si addicono alla sopravvivenza, e abbiamo un buono che invece sensi di colpa non ne ha più, perché è un guerriero, perché è in una situazione di handicap, perché sente di poter fare qualsiasi cosa. E poi ci sono i sensi di colpa dello spettatore, cioè noi scopriamo a un certo punto che veder picchiare una donna ci dà più fastidio che massacrare un uomo, no? Cioè, si può ragionare sulla parità che ci può essere anche di genere all'interno della percezione dello spettatore di un cinema. Ecco, Fede Alvarez gioca con questa parità, che in verità non esiste, perché forse anche giustamente vedere picchiare una donna è più faticoso per uno spettatore, è più traumatico che vedere sostanzialmente anche una scena splatter ai danni di un uomo. Tutte queste contraddizioni messe all'interno di una costruzione di scrittura molto solida, molto bella, e di una visione molto interessante, se noi Fede Alvarez ne parleremo in futuro come uno dei maestri del genere, rende, come dici tu, sono pienamente d'accordo, Man in the Dark, il film della settimana, e credo anche uno degli horror della stagione, anche se poi è difficile definirlo un horror, nonostante ci siano scene slasher e ci sia sangue e ci sia paura, è molto di più. Quindi complimenti a Fede Alvarez, perché non era facile riprendersi dal fallimento precedente dopo tutte le aspettative che c'erano su di lui. Che c'è lì? Ok, amico, rilassati. Senti, Io ero ubriaco e sono entrato per sbaglio. È stato un mio errore, quindi adesso me ne vado, ok? Me ne vado adesso. Stronzo, resta dove sei. Già, proprio così. So cosa c'è lì dentro e non me ne vado senza. Mi hai capito? Fa come ti dico, è chiaro? Non provare a fare un altro passo, d'accordo? Scusa. Non ti muovere! Tutto che è sotto. Che vuoi fare adesso, eh? È meglio che ti fermi. Fermo! In quanti siete qui? Don't Breathe, il titolo originale di Man in the Dark, non respirare, perché effettivamente l'errore che non devono fare i malcapitati ladri, ladruncoli, rapinatori di villa è quello di respirare, di far sentire la loro posizione in questo thriller dei sensi, potremmo chiamarlo. E allora, adesso, linea di nuovo alla regia, fra poco torniamo insieme, ci aspettano Independence Day, Regeneration, il ritorno di questa saga che ha un po' segnato qualche anno fa ormai una commedia di fantascienza, chiamiamola così, e poi l'intervista a Silvio Soldini per il suo Il fiume ha sempre ragione. La rosa purpurea. Di nuovo insieme alla Rosa Purpurea e come dicevamo, come annunciavamo, è arrivato il momento di Independence Day, una saga che 20 anni fa più o meno ha, diciamo così, fatto partire una logica anche divertente e divertita di una fantascienza d'assalto con gli alieni che per l'ennesima volta invadono la Terra, attaccano la Casa Bianca, vogliono distruggere il mondo, eccetera. E siccome quest'anno è stato un po' l'anno in cui queste vecchie saghe, pensate a Ghostbusters, sono state un po' riciclate e riportate in sala per un pubblico nuovo, ecco che arriva anche Independence Day Regeneration nei nostri cinema. Guarda, ero schianto a Roswell nel 47. Il contadino che trovò i rotami disegnò lo stesso cerchio. E ogni volta che intervisto i miei pazienti e mostro loro questo, tutti quanti esprimono la stessa emozione. Paura. Non credo che sia un cerchio. La notte in cui la nave si è accesa, ho avuto la più potente visione di tutta la mia vita. E ho disegnato questo. È incredibile. Avete decifrato gran parte del loro linguaggio. Loro davano la caccia a noi. Noi abbiamo imparato come dare la caccia a loro. E allora, Roland Emmerich sempre in cabina di regia, e quindi, come dire, la mano è quella originale, poi Bill Pullman, Jeff Goldblum, Liam Hemsworth, Charlotte Gainsbourg, tanto per dare qualche nome di un cast altisonante. Buon andamento negli Stati Uniti, magari non meraviglioso, ma insomma più di 100 milioni di dollari di incasso, 41 dei quali nel primo weekend. Boris, c'è ancora quel filo di divertimento e quella voglia anche di cambiare un po' le regole del gioco del primo film? O siamo alla fotocopia, diciamo, anastatica in bianco e nero? Più o meno tutte e due, ma più la seconda, come diceva quello, la seconda che hai detto. Nel senso che io confesso una grande passione per l'Independence Day originario. Trovavo che quella fantascienza cialtrona fosse l'ennesima dimostrazione di come Emmerich fosse un autore sui generis, un Ed Wood di talento, straordinariamente capace di maneggiare grandi budget trovando delle sfumature rozze di enorme potenza. Independence Day era proprio la dimostrazione, in qualche modo anche più seriamente L'alba del giorno dopo. Rendeva straordinario la capacità di portare commedia e genere, divertimento e paura anche, perché poi il genere apocalittico è anche quello, il genere di invasione aliena è anche quella, a braccetto, soprattutto attraverso personaggi che apparentemente potevano sembrare attori di secondo piano e che invece riuscivano a incarnare entrambe le cose. Ed arrivava anche in un periodo in cui certi tipi di film, tra virgolette, presidenziali, penso Air Force One, alzavano il livello della retorica e Emmerich in qualche modo la abbassava portandola al parossismo. E qui invece quel tipo di ironia sembra mancare, o in alcuni casi è troppo marcata. C'è quasi un orgoglio eccessivo, come a raccontare che adesso la vera civiltà aliena, quella che ha saputo migliorarsi e progredire, è quella umana, in qualche modo sembra questo Independence Day scontare il fatto che nel frattempo il mondo è cambiato, che nel frattempo il mondo ha bisogno di essere rassicurato e non preso in giro. Si è persa tutta quella gioia infantile, quella capacità di giocare sulla fantascienza, e sembra di essere tornati un po' indietro quando la fantascienza era uno strumento di propaganda politica. Un peccato, perché a mio parere dall'alba del giorno dopo Emmerich ha perso quella sua capacità di rottura degli schemi dei blockbuster ed è diventato molto più ordinario. E in più questo film, anche a livello di intrattenimento, secondo me è davvero uno o due passi sotto quello che normalmente lui riesce a fare. Stai bene? Mia madre vive a Londra. Forse si è salvata. Sì, forse. Papà, dove sei? Sulla mia barca, dove se no? David, questa è molto più grande dell'altra! La vedi? Stammi a sentire, devi tornare a riva prima che puoi. Papà! David, David! Oh, santo Mosè! E questo era Independence Day Rigenerazione, anche questo nei cinema italiani, a cercare di attaccare una classifica che vede sempre il buon andamento di Suicide Squad, che pensate ha preso qualcosa come quasi 11 milioni e mezzo in questo avvio di stagione, quindi davvero la sorpresa di questo inizio di stagione, di questo scorcio iniziale, mentre la settimana scorsa il maggiore incasso è stato dell'Era Glaciale, Rotta di Collisione, e al secondo posto Io Prima di Te, ne avevamo parlato qui alla Rosa Purpurea. E allora un altro salto mortale, se vogliamo, un salto carpiato, perché andiamo a parlare di un film totalmente diverso per materia trattata, per tipologia. Silvio Soldini, che con un documentario che viene distribuito proprio nelle sale in questo fine settimana, ci racconta la storia di due artisti molto molto particolari. Il film si intitola Il fiume ha sempre ragione, lo ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Senza colore mi sembra che non esistano le cose. Se fai le cose un po' con amore, dico, se uno fa bene il pane è un poeta anche lui. Per me sono preziosi, io non li posso mica lasciare lì, magari che degradano ancora di più. Li vedo, poi mi fanno pena e li prendo. C'è la follia dopo dilaga, perché sono i cassetti pieni di... È come un mondo un po' incontrollato, ormai non lo controllo più. Le voci appena sentite sono quelle di Alberto Casiraghi e Josef Weiss. Il primo è un editore, aforista, un illustratore e fondatore della casa editrice Pulcino Elefante. La sua bottega a Osnago apre le porte ad artisti, disegnatori, poeti. Basti citare Alda Merini nel passato. A Mendrisio, nel Canton Ticino, c'è invece l'atelier della stampa e della rilegatura d'arte di Josef Weiss. Silvio Soldini li segue, racconta i loro mestieri all'apparenza fuori dal mondo, in cui ogni foglio ha importanza, ogni libro è da salvare. Tutto si crea con cura, dedizione e pazienza. Sembrano vivere in un'altra epoca i novelli Gutenberg, ma dicono verità universali, come quella che è diventata il titolo di questo documentario. Il fiume ha sempre ragione. Sono loro a raccontare se stessi e a fare se stessi, compreso quando intonano l'inno alla gioia. Premiato dal pubblico al Biografi Film Festival, raccoglie in sé humor e filosofia. I protagonisti si riescono a definire solo incantevoli e al regista viene da domandare come li abbia scovati. Si conoscono, si apprezzano, si stimano, e quindi l'idea di mettere insieme queste due persone che vanno in controtendenza, diciamo, col resto del mondo era molto affascinante. Se uno se li immaginava non li faceva così, due personaggi del genere, cioè, ci ha pensato anche lei, cioè se li scrivevo io. Ma sempre così quando si trovano delle persone, dei personaggi straordinari, proprio straordinari, perché non hanno niente di ordinario. C'è anche della follia, c'è della poesia, c'è di tutto, ma è la cosa bella. C'è molto anche nei suoi personaggi di film di finzione questo. Sono ispirati a qualcuno quelli dei film di finzione come personaggi, oppure... Beh, a volte sì, a volte è successo di ispirarsi a delle persone conosciute facendo dei documentari per fare dei personaggi nei film di finzione che avessero qualche cosa di molto particolare, sì. Bruno Ganz lo aveva, l'Orlando Furioso, tutto era un mondo a parte. Bruno Ganz mi sono ispirato a un vero cameriere che però non aveva a che fare con un documentario, un cameriere che aveva incontrato una sera in un ristorante che aveva un modo di fare simile. Documentario e film di finzione viaggiano paralleli nel suo cinema, prima uno poi l'altro, si lascia uno per tornare all'altro, come funziona? Sì, sono due amori abbastanza paralleli. Nel documentario tra l'altro sono io in prima persona anche con la camera, di solito questi documenti, gli ultimi, compreso questo, li abbiamo girato con due camere, una ce l'ho io e proprio il mio sguardo è quello che poi arriva sullo schermo, insomma non c'è un filtro, quindi sono anche due viaggi un pochino diversi. C'è una preferenza da parte sua? Per un viaggio o per l'altro? No, mi piacciono tutte e due, sono molto opposti. In uno si tratta di cercare di cogliere quello che hai di fronte, nel senso più vero del termine, non solo superficialmente ma anche nella sua profondità, e nell'altro invece di ricreare proprio un mondo. Ci sono dei film di finzione in programmazione o sta prevalendo il documentario? Sì, no, c'è un film che dovrei girare in autunno. Protagonisti saranno Valeria Golino e Adriano Giannini e per ora non dico altro. E questo era allora il film di Silvio Soldini, Il fiume ha sempre ragione. Grazie a Chiara Pizzimenti. È il momento di giocare nuovamente insieme con il nostro film misterioso. Non dimenticarlo mai. Tu sei mio. Mio, solo mio. Dovunque andrai o comunque ti chiameranno, tu sarai per sempre mio figlio. E allora, seconda traccia del film misterioso, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il vostro parere, il titolo del film, il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray che sveleremo fra qualche istante. Abbiamo ancora un minuto per farci raccontare da Boris Sollazzo se valga la pena o meno vedere Un amore all'altezza. Fa sempre un po' strano incontrarsi di persona. Quando si parla al telefono ci si immagina in un certo modo e poi non è come si pensava. Oh no, perché io non mi ero immaginata una persona. Buongiorno. Di preciso, no? Cosa vi porto? Una Perrier per me. Niente ghiaccio con una fettina di limone. Esattamente. La ringrazio. Lei vuole qualcosa? No, sto bene così. D'accordo. Vieni qui spesso? No, ma diciamo che la gente si ricorda di me. E allora, avete sentito un passaggio di questa commedia francese di Laurent Tirard con Jean Dujardin, protagonista principale, un film che Boris lavora su un preconcetto della nostra società, se vogliamo, quello della statura. Un uomo estremamente basso che si innamora di una donna alta o comunque più alta della media, questo amore all'altezza del titolo dice tutto un po' sulle intenzioni, invece la soluzione del film qual è? La soluzione del film è buona, secondo me, non eccellente come poteva essere, ma è buona, diciamolo subito. Jean Dujardin non è un nano, però essendo pure uno degli attori più alti del panorama internazionale, interpreta un uomo di 136 centimetri di fronte a una donna, insomma, che ha un'altezza da modella e che quindi chiaramente acuisce questo suo problema fisico. In poche parole, diciamo, qual è l'intuizione, secondo me, è davvero geniale del film? Proporre in quella parte quello che possiamo definire un uomo minima perfetto, nel senso che al di là di quel difetto fisico, e poi bisogna vedere se è un difetto fisico, perché lo spettatore, ma anche gli altri, come possiamo pensare agli avventori del ristorante, glielo abbonano perché non lo notano a un certo punto, è un uomo affascinante, un uomo simpatico, un uomo brillante, a differenza magari dei normodotati. Questa è curiosamente una puntata in cui gli handicap si trasformano in atu, e questo può essere interessante come visione, insomma, cinematografica e non solo. E questa è sicuramente un'ottima intuizione, perché mette sempre in crisi lo spettatore. Quello che non fa però la commedia francese, come spesso sta facendo ultimamente, è quello di non premere sull'acceleratore, cioè poteva diventare davvero politicamente scorretta, poteva diventare entusiasmante nel suo portare avanti questa strategia, e invece sceglie la via più facile, cioè sceglie la via dell'amore come strumento per sanare qualsiasi diversità, non insiste su i muri delle nostre società, ma sulla capacità dei sentimenti di superarli, e in qualche modo normalizza quello che normale non è. Quindi bello per il coraggio del soggetto, forse non abbastanza bello per il coraggio che ha avuto poco in regia e sceneggiatura dopo. Bravissimo Duce Ardenne, che è il più straordinario sornione che abbiamo in questo momento come attore. Grazie allora a Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana. La prossima settimana è buon cinema. Linea alla viabilità, fra poco insieme parliamo di musical, perché arriva sulle scene milanesi il musical Love Story. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta Bologna-Venezia, viaggetto romantico, io, lei e il sistema Digital Radio. Sentiamo la radio? Certo, ma ascoltiamola in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto grazie all'autoradio digitale. Niente effetto salto, nemmeno se ti sposti per chilometri, perché il sistema Digital Radio non ti lascia mai. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. La rosa purpurea. Indimenticabili e assolutamente famose del tema di Love Story ci accompagnano in questo inizio della quarta parte della Rosa Purpurea, perché vogliamo parlare di un musical. Lo facciamo spesso qui alla Rosa, quando i musical hanno un'estrazione cinematografica. Insomma, arriva Love Story, il musical, in Italia dal 16 di settembre, la prima al Teatro Verdi di Montecatini, poi dal 21 settembre al 25 al Carcano di Milano, e quindi dal 10 ottobre in poi al Teatro Sistina di Roma. Insomma, arriva un musical che nel 2010, quando la versione originale è stata presentata a Londra, è stato accompagnato da critiche molto positive. A curare l'edizione italiana è Andrea Cecchi, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, quanto è rimasto impigliato in questo spettacolo delle emozioni di quel film che sconvolse tutta una generazione? Allora, io sono molto giovane perché ho 34 anni. È sempre stato, vabbè, è un film, è un cult, quindi già lo conoscevo. È rimasto tutto, anzi forse con uno spettacolo dal vivo si sono aggiunte anche ancora di più le emozioni, no? Sia tramite le musiche, poi essendo uno spettacolo dal vivo trasmette ancora di più del film. Ecco, hai parlato bene, hai detto spettacolo dal vivo, perché anche l'orchestra sarà dal vivo. Sì, c'è un'orchestra di 7 elementi dal vivo e questo aggiunge una nota di eleganza a tutto lo spettacolo. Ecco, parlaci un po' di due protagonisti, insomma la storia, i più giovani appunto magari non la ricordano, ma è quella di un amore interclassista, cosa che oggi va molto di moda nel cinema, raccontare gli amori impossibili fra un ragazzo della middle class, diciamo così, anzi dell'upper class newyorkese, e una ragazza proletaria. Quello era un po' il tema forte, anche se poi alla fine è anche questo è un tema che va molto di moda ancora oggi. Abbiamo parlato di Io prima di te, c'è il tema comunque della morte che è certo, forte insomma in questo film. E infatti il film è stato fu un evento proprio anche per questo, perché comunque una grandissima storia d'amore a metà degli anni 70, dove per la prima volta nel cinema la protagonista poi alla fine muore, quindi l'amore dei due ragazzi, ma comunque anche poi la sofferenza della scomparsa appunto di lei, di Jenny. Allora, diamo l'appuntamento, Andrea, al Teatro Verdi, per chi potrà muoversi su Montecatini per la prima del 16, ma poi dal 21 settembre soprattutto al Carcano di Milano, che ha un po' più di capienza e soprattutto un po' più di date per vedere questo musical, questo Love certo. Story dal vivo, e speriamo che le emozioni siano le stesse e che amare, com'è che faceva la frase, amare vuol dire non dover mai dire mi dispiace. Sì. Ecco, speriamo che uno non debba dire sì. Mi dispiace, ma penso che non sarà così. Grazie Andrea Cecchi. Grazie mille, grazie a voi. E allora, lo spazio per il cinema che diventa live con i grandi musical. Adesso siamo arrivati al momento invece di raccontarvi tutto il cinema che c'è da vedere sul piccolo schermo. A partire dalla soluzione del game della scorsa settimana, ascoltiamo questa clip. So che significa essere minacciati. vedere gli altri troppo forti e sentirsi piccoli e impotenti, ma voi non lo siete. Facendo questo glielo dimostreremo, glielo prometto. Se fidi, vi proteggeremo. L'avevamo svelato il titolo, si trattava di Truth la settimana scorsa, e però nessuno ha indovinato, incredibile. Il film evidentemente era piuttosto difficile, e allora noi lo recensiamo lo stesso adesso, perché vi facciamo sapere com'è questo Blu-ray, però i nostri Blu-ray rimangono lì a futura memoria per fare un bel montepremi magari di un gioco natalizio, chi lo sa. Andiamo subito però in recensione con gli amici di Film TV e con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori da Venezia. Sì, c'è una giornalista, un conduttore televisivo e la trasmissione di inchiesta della CBS è 60 Minutes, e c'è un possibile scoop che potrebbe screditare George W. Bush a un passo dal secondo mandato contro il candidato democratico John Kerry. La storia ovviamente è vera, il film si intitola Verità ed è un film a tesi che, oltre che sullo scandalo, sul racconto di denuncia, si concentra molto sui giornalisti e sulle conseguenze tempestose della loro denuncia. È un film che proprio trova nell'impegno morale l'unico motore possibile del mestiere del giornalista. Guardare la professione oggi sembra un film un po' fuori dal tempo, uscito dagli anni 70. I protagonisti sono Kate Blanchett e proprio un'icona del cinema di impegno come Robert Redford. Il Blu-ray è veramente molto molto scarno, una doppia traccia audio, un'unica lingua per i sottotitoli, ovviamente l'italiano, e il trailer come extra. Questo per quanto concerne il Blu-ray, il game della scorsa settimana. Giulio, andiamo a vedere invece un paio di consigli dai film di questa settimana in TV, a partire da domenica 11 settembre, quando vi consiglio di non perdere a mezzanotte 25 su Rai 3 Solo gli amanti sopravvivono, uno degli ultimi film di Jim Jarmusch. Esatto, Rai 3 propone in prima visione TV quello che di certo non è il solito film di vampiri. Lui è interpretato da Tom Hiddleston, vive a Detroit, quella che i Kiss chiamavano la Rock City. Lei è la meravigliosa Tilda Swinton, vive a Tangeri, dove un tempo invece sognava la Beat Generation. Sono vampiri, si amano da sempre, si nutrono di sangue, ovviamente, ma lo fanno con cura e precisione, non esagerando mai. Come con cura e precisione amano le pagine dei libri e i solchi dei vinili. È un film stranissimo, una sorta di sitcom moralista, una ballata malinconica, ed è un film dell'orrore che però ha paura solo dell'oggi, dell'arte usa e getta, delle cose che non richiedono più il loro tempo. E ricordo allora l'appuntamento domenica 11 settembre, Solo gli amanti sopravvivono di Jim Jarmusch su Rai 3 a mezzanotte e 25. Due giorni dopo, martedì 13 alle 17:20 su Iris, c'è uno dei classici di quella fantascienza di serie B di cui abbiamo parlato tanto anche recentemente nell'intervista esclusiva con Roger Corman, ovvero Il pianeta proibito. Il pianeta proibito, un classico della fantascienza cinematografica, quello che è un adattamento veramente bizzarro, una fantasiosa rielaborazione della tempesta di Shakespeare, tra l'altro con una marcatissima chiave psicanalitica. Rimane tutt'oggi un apologo su un problema fondamentale dell'uomo, ovvero la risposta alla domanda come gestire la conoscenza. È uno dei primi esempi adulti del genere fantascientifico e rimane tutt'oggi un piccolo capolavoro. E allora l'appuntamento col pianeta proibito su Iris alle 17:20 di martedì 13 settembre. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima settimana. E allora siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Io vi ricordo e vi svelo il game di questa settimana. Si trattava di Il libro della giungla, il recente remake live action e molta computer graphic della Disney. Settimana prossima i vincitori. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisti.